bevazzano caffè, come si fa la manifestazione. Picchio pane o provolone, non scordano pannolin, picchio mire con de buone de peppine. Cuccio guanda San Pasquale, che ci sono un mandolin, de peppine, che se frega tutto mire. Si m'ha arrivata a Roma, uè! Tutte guanda alla manifestazione, o picchiami non può dare barone. La mano a papà, tutto insieme, bella sta fotografia. Fa assumire state cheat, fammi sentire un pic, che sta a parlo con della CGL. Io non sei nasciuto sen, e tu se son preacat, tre se facile non spinita, non scannut. A faccio Berlusconi, tutta quanta la manifestazione, con i piedi non può dare padrone. Chiamaretta a casa, ogni dia un bacio alla televisione. Per scramascia fa de ga, e ci vogliono licenziare. Non ci donna, manca la liquidazione. E ne manca la pensione, i tengo una famiglia. Doi a scia, spalle rocco, quattro pic. Abbascio canalone, tutta qua alla manifestazione.